Le strade della comunicazione. Marketing e comunicazione, un mondo che cambia al passo della società e soprattutto della tecnologia. Saper parlare ai consumatori, ma non solo, è centrale per l'attività di un'azienda che voglia trasmettere di sé e dei propri prodotti un'immagine coerente e positiva. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Esperto in relazioni pubbliche e comunicazione d'impresa. È la figura professionale che si occupa della comunicazione dell'azienda, sia all'esterno, verso il mercato di riferimento, sia all'interno della stessa impresa. Deve saper costruire progetti di comunicazione e realizzarli, mettendo insieme creatività e capacità organizzativa. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in marketing, consumi e comunicazione dell'Università Yulm. www.yulm.it.